tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com per le mail notiziariogiordanobruno@gmail.com. Iniziamo da The Post Internazionale, una pubblicità apparsa sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, appunto. Questo settimanale rivela la rete clandestina dei cattolici tradizionalisti Novax, esclusivo i Novax di Dio, in cui prende in giro il sacramento dell'Eucarestia trasformandolo in una siringa. Il prete dei festini con la droga, verso una pena di soli 3 anni, il settimanale giallo del 10 novembre. Don Francesco Spagnesi, ex parroco a Prato, ha chiesto un patteggiamento e una pena di 3 anni e 8 mesi, quindi ha ammesso tutti i suoi mostruosi crimini. Dall'archivio della Stampa, che leggo ogni tanto per trovare i crimini della Chiesa e dimostrare la continuità delle attività criminali del clero, 5 giugno 1965, arrestato a Roma il padre guardiano del convento dove fu scoperto il contrabbando, e il quotidiano La Stampa pubblica anche la foto di questo grasso frate, un criminale come quasi tutti i frati. Mostruoso crimine del ghetto di Ferrara: gli ebrei erano chiusi a chiave la sera e liberati la mattina. Dalla rubrica Sorgente di Vita, Rai 2, alle 8:10 del 7 novembre. Si parla anche dell'altro mostruoso crimine del sequestro del piccolo Mortara, un bambino di pochi anni che fu sequestrato alla sua famiglia. E è stato mandato anche in onda un quadro del sequestro. Si parla del famigerato Bernardino da Feltre, un fanatico frate antisemita, un vero e proprio criminale. Si parla anche del 7 luglio 1480, e 3 ebrei furono arsi vivi a Porto Buffolì, ma era tutta una montatura dei frati francescani, che sono specialisti notoriamente nelle truffe più incredibili. Anzio, l'uomo forte di Forza Italia inneggia al Duce, il clerico fascismo. Ecco che questi forzi italioti filocrocifissi sono tutti fascisti. Fatto Quotidiano del 7 novembre. Passiamo ora a questo ritaglio del Corriere della Sera del 9 novembre. Il Palazzo di Londra può costare al Vaticano 110 milioni di euro. L'offerta e le stime, ipotesi di maxi perdita. Come al solito tutti i funzionari del Vaticano non sono altro che dei maneggioni, dei criminali. Il Vaticano è un covo di criminali. Questo caso di questo Palazzo di Londra lo dimostra per l'ennesima volta. È tutta una colossale truffa ai danni del Vaticano per arricchirsi alle spalle di chi crede in questa religione. Francia, pedofilia, per i risarcimenti la Chiesa vende immobili. Un ciliegino sopra la torta. Corriere della Sera del 9 novembre. I crimini della Chiesa anche sul giorno cioè il quotidiano nazionale del 9 novembre. I cold case e i segreti in Chiesa, pista religiosa anche nel criminale assassinio di Nadacella. Sacerdote indagini tra verità e finzioni. E si ricorda il terribile caso di questa povera Elisa Claps, 17enne di Potenza, assassinata da un parrocchiano. Il corpo fu ritrovato nel sottotetto di una chiesa. Chiaramente i preti sapevano tutto, ma hanno coperto lo scandalo. Dal Manifesto del 9 novembre, Francia, la Chiesa cattolica risarcirà le vittime dei preti pedofili. Quindi vittoria anticlericale in Francia. Anche il Giornale dei Preti, Avvenire, è costretto ad ammettere la natura criminale della Chiesa. Abusi su minori in Francia, la Chiesa chiede perdono. circa 216.000 le vittime di esponenti del clero, avvenire del 7 novembre. Sempre il quotidiano L'Avvenire parla un giorno di penitenza per i vescovi francesi, L'Avvenire del 5 novembre. E quindi cosa devono fare i preti? Fanno finta di chiedere scusa, ma poi tutto continuerà come prima, perché la natura della Chiesa è questa, è un'organizzazione criminale volta alla pedofilia ecclesiastica. Il prete spione e finta processione dalla prealpina dell'8 novembre. Si racconta cosa accadeva nel Varesotto, scapaccioni violentissimi, percosse contro chi non stava attento alla dottrinetta, e parliamo però degli anni 40, e il prete spiava le donne che leggevano il settimanale Grand Hotel, grandi peccatrici, e curava anche le ragazze che andavano a ballare e gli negava la comunione, e la processione per la mancata pioggia non era altro che un'occasione per un erotismo cattolico notturno. Andiamo avanti da Milano Today del 2 novembre 2021. La scuola chiude perché mancano le suore. 80 bimbi rischiano di restare a casa. Grande vittoria anticlericale a Cesano Boscone. Su italialaica.it pubblicata la mia recensione del libro di Walter Isaacson, Decifrare la vita. Jennifer Doudna, la scienziata premio Nobel che ha rivoluzionato l'editing genetico, riconferma che noi non siamo stati creati, ma siamo frutto di un'evoluzione. E parla anche di una specie di panteismo che ricorda quello di Giordano Bruno. Dal Corriere della Sera del 2 novembre. Il fotografo in appello, non fu vilipendio della religione, assolto Toscani. Vittoria quindi anticlericale. Si può criticare la Chiesa. Eutanasia. Vota la legge in Parlamento ai tempi supplementari. Parliamo del Portogallo, dall'Avvenire del 5 novembre. Quindi grande vittoria anche in Portogallo. Sì al fine vita per Samantha, il giudice, ma decide il medico. Dal Quotidiano Nazionale del 6 novembre. Samantha Dinca, questa ragazza di Belluno, si trova da oltre 11 mesi in stato vegetativo. La ragazza non ha mai compilato alcun biotestamento, ma la famiglia assicura, lei non voleva vivere in questo mostruoso stato di vegetale. Quindi vinte le resistenze clericali e la ragazza purtroppo, se non si può far altro, morirà. Chiudendo le, diciamo, impedendo, sospendendo le nuove terapie di sostegno. Samantha non vive da 11 mesi, atto d'amore staccale la spina, dal Corriere della Sera del 6 novembre. Belluno, la madre della 31enne in coma irreversibile, io e mio marito abbiamo deciso, purtroppo la situazione è questa e non c'è niente da fare. È uscito poi il libro di Edi Bernasconi, un ticinese anticlericare, L'eredità di Emilio Bossi, Milesbo, a 150 anni dalla nascita, a 100 dalla morte. Saggio biografico di carattere storico, politico, filosofico, ricchissimo di elementi anticlericali e antireligiosi, a favore della laicità. Testo è corredato da bibliografia, foto, disegni, eccetera, eccetera, tra cui segnalo il periodico L'Anticlericale del 1902, organo d'associazione ticinese dei liberi pensatori. A questo grande anticlericale nel Mendrisiotto è stata eretta proprio una statua che è tuttora esistente. Ricordiamo che fu l'autore del famoso libro Gesù Cristo non è mai esistito e che fu ristampato in Italia dall'edizione a fiaccola di Ragusa, che ebbe delle grosse grane giudiziarie per aver avuto questo coraggio. Leggiamo un attimino questa copertina dell'Anticlericale del 1902. Ci sono circa una cinquantina di signori facenti parte di questa associazione dei liberi pensatori ticinesi che identificavano nell'anticlericalismo a Chiasso, nel 1902, l'utilità e la necessità di un impegno contro la Chiesa Cattolica, le sue prepotenze, i preti pedofili, le sue malversazioni finanziarie, eccetera, eccetera. Dal Quotidiano Nazionale del 2 novembre, la Piazza degli Eroi, secondo Andò. Da domani, il 14 novembre, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, questa tragedia, che è un suicidio di questo ebreo vittima dell'antisemitismo, del razzismo, e si parla, si critica pesantemente anche la religione cattolica, no? Si parla proprio di cretinismo cattolico, ci sono delle frasi molto violente contro la Chiesa. Bene, saluti a tutti e alla prossima puntata.